7. Ascolta il testo. Le lezioni sono tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Ogni ora c'è una pausa, perché cambia il professore o la professoressa. Dopo le lezioni, i ragazzi hanno tempo per studiare in biblioteca. La biblioteca è aperta dalle 8 alle 20. Per entrare in biblioteca, è necessario avere una tessera. La tessera è gratuita, non è necessario pagare. Basta solo presentare un documento valido e dopo pochi giorni la tessera arriva a casa per posta. Tutti gli studenti possono consultare i libri della biblioteca. Attenzione! Sabato e domenica la biblioteca è chiusa.